però. M. Cosa cavolo c'è scritto? 95. E con che radio? Con Nes 4000. Dice bene, non è male. È amplificata, sì, la radio. È perfetta. No, non c'è bene con la radio. Eh? Vabbè, se c'è bene, questo microfono ce l'ho a 10 cm dalla bocca. Già va bene, già va bene. E la letta di amplificazione, se dai, vabbè, diciamo, ho comprato 2 settimane fa, da una cosa del genere, 41 me l'ha fatto pagare, ne valeva 45 e me l'ha fatto 41. 41 euro, quanto l'MB più 4? Finché? C'è lo... il coso, la busta, lo scontrino, il, come si chiama, come collegare, c'è tutto. E dopo nuovo nuovo, anche l'altro l'ho lavorato a Piero, l'altro l'M93, insieme a Saturneco. Ma quando entra Piero? No, non è piazzato antenna ancora. Ancora no, ancora piazzato. Quando lo sento di telefono glielo dico, io piazzati con la Fidenza 2, no, non prendere le balle, dico. Cosa c'è paura, se te vedo il tuo, questa paura c'è di installarti un'antenna, no, capito, bro. Sì, ma infatti, non so, cioè, ci ha preso la radio, non... Ah, tu si pensava una boomerang o qualcosa del genere, mi ha detto. O la Grand Prix, boh, non ho capito bene cosa vuol fare. Sì, ma si è preso la radio, cioè ti compri la radio e non ti piace l'antenna prima, boh. Vuol dire che... cosa vuoi dire che io? Non so cosa dirti. L'antenna ce l'ha detto, c'è la Firenze 2, c'è il palo, la 6 metri. E poi non ha collegato nulla, cioè non ha installato ancora niente, poi non lo so. Io se compro la radio la compro perché c'ho l'impianto già pronto, se mi comprai giù la radio e poi non ho impianto, cosa me la compro a fare? Tenerla lì. Evidentemente se la terra di lì, conservata, non c'è di sopra. A meno che non vado in qualche altra casa magari, ma mi ha detto qualcosa, dice che il terreno è suo, la casa è la sua, quindi non vedo, fosse stato magari in affitto tanto quanto, ma non lo è. Aspetta un attimo, Antonio. Fai che tanto sto controllando roba di qua qualcosa. Sto controllando questo battito perché non mi funziona. Già riprendo dopo, dai. Thank you. Ciao Carlo, mi state a Borlotti? Buonasera, buonasera. Ciao Tino. E allora questi ragazzini che giocano in bandiera laterale e mi stavano facendo impazzire, ma perché sento così, ma in bandiera laterale, dice, boh, io Renai mi ha detto sentivo strano. Ma oh, vabbè, io mi sono portato, dice, vedete chi è. Ma ognuno si ne può fare andare, i commenti di Biazzi, a piedi, a Maningiosso, a Ruzzoloni, boh. Beh, dimmi Natale, com'è andata la rossita? E quella rossita? Mica non l'abbiamo fatta rossita. Mannaggia, che... Io la volevo fare, ma non lo sai com'è. Io sono preso, non mi avete detto nulla. Ma di cosa? Della rossita. Io la volevo fare dentro piccolo in ovvia, fa fumo, voci, ma non sono... non ci siamo messi d'accordo. Sì, chiesta. Ecco, già di nuovo, ti cazzo, ti puoi cambiare idea. Fa un po' di fumo. Così. Via. E allora sì, ammari. No, oggi no, ne ho approfittato a fare cose a casa, non avevo tempo di andarci e ne sto facendo la piscina ora, quindi mi sono rinfrescato e adesso sono entrato a casa con il condizionatore a palla perché fuori c'è troppo caldo. Poi anche io li ho accesi ma più di tanto non li lascio perché fanno male, dimmi da dolore all'usci, ogni volta che li accendo mi fanno così. No, qua credimi, in campagna c'è troppo caldo, umido e niente, fuori non si può stare, quindi ho preferito rincasarmi. Ah, pensavo che ci fosse più fresco in campagna, con la sera che ci sono gli alberi, eccetera, e invece c'è caldo lo stesso. Caldo, non vi lascio perdere. Kappa, e vabbè. Già c'è il rimedio, meno male. Sì, diciamo di sì. Ho provato ad andare, poi ho detto, troppo caldo, cioè, poi stare lì a soffrire, poi non si lascia perdere. Ho preferito qua. E io quando c'è questo caldo qua mi sono così sempre a muglio, non ci vado in spiaggia, sempre a mangiare sto. Vabbè, ma no, non è andata così oggi, dai. Vabbè, da sempre cosa va a fare, fatto bene. Certo che non è scelto una giornata molto fresca. No, vabbè, ma era piacevole la cosa che sto facendo, quindi mi è gratificato ugualmente. Sta, va a tirare a Natalino. Sto scendo sto. Sì. E alla fine ha fatto la salina, un bel susse. Io qua non c'ho quarema, niente, zero brutto. Ma a te ce n'è quarema? Allora, diciamo che qua nella casa 525 Santiago 3, nell'altro non ho ancora controllato. Qua è proprio molto, molto, molto. Ho chiuso lo scotch senza volerlo. Vabbè, mangiamo bene, dai, perché voi vi sentono molto bene. È come una telefonata. Sì, va bene. Anda bene. E tu non sei uscito? No, oggi avevo gente a pranzo e non sono potuto uscire. Se ne sono andati via verso le 6. Adesso aspetto al fresco, esco col cane, perché c'è troppo caldo. Non fai uscire, dai. Dovevo andare al mare, ma poi vabbè, è venuta gente, abbiamo invitato a pranzo, quindi praticamente recluso. Vabbè, ci sta ogni tanto. Sì, poi la compagnia fa sempre piacere. E Cagnacci come sta? Lui mi è coricato qua vicino a me, sta soffrendo il caldo anche lui. E Taisa si cambia, se ne va in terra, di solito si corica sul materassino suo. Ma adesso va in terra perché cerca il fresco, capito? Se non va in terra, l'altro giorno gli ho fatto la doccia e se ne è stato fermo, se l'ha fatta fare tranquillo. Ho fatto la doccia, non rimbaria lì. Sì, vabbè, diciamo che io anche stamattina gli ho preso la pompa, li ho bagnati perché poi è venuto anche il cane mia sorella, oggi qua, un fatto da testo spesso, sono... quindi appena si vedono, si rincorrono, giocano, ma c'è troppo caldo, capito? Quindi sono dovuti bagnare. Beh, ma tanto mi li lavo, poi quando vanno i bisogni alzano la polvere e si sporcano di nuovo. quanto ce l'ha durato l'ha fatto. Poco tempo. Lo sentite? Il testo. Ma lo senti? Aspetta. Adesso non lo facciamo. È andato. La lingua fuori. Allora c'è senso. No, sto raccorrendo fino adesso. È uscito un attimino e è rientrato al presto. Però dalla lingua riciclano il caldo che hanno dentro, lo buttano fuori e prendono l'aria più fresca. Fanno così, è un riciclo d'aria che fanno. E poi dalle zampe sudano, dalle zampe dai polpastri. Scusatemi, già che devo salutare, sono via mia sorella e mio cognato e mia nipote. Va bene, dai, vai tranquillo, va. Natalino, ci sei? No, Natalino è in cucina. Meno male che c'è la segretaria, ciao conce. Ciao, non è da tutti avere una segretaria. Infatti, non è da tutti no. Lui è fortunato. In tutto per tutto è fortunato, come moglie, come segretaria e come tutto. Modestina! Cava cava, già lo so che è così. Oh no, non ho capito. Ma vedete, già lo so che è così. Capito, sta rientrando il padrone adesso. Il padrone? Avanti si manda. Mi sto preparando che devo mangiare già. E vabbè, allora chiuso, non c'è nessuno, che non se n'è andato. Io vabbè, chiudo tutto quanto, ci sentiamo, ciao. Ciao, già, ciao. Attenzione, Maccolino Condo, se si è nascosto. Sì. Maccolino. Attenzione, Vinci, c'è qualcuno nascosto? 110, c'è qualcuno? Attento canale 10. Avanti. Ciao Natalia, e beh, avevo il caso. No, no, ne ho già abbastanza, grazie comunque per il pensiero. Cattani calore, sono uscito stamattina e poi sono rientrato a temperatura in Italia, cioè ma il cattino verso le 11. E sono fuggito, sono stato 10 minuti, cioè stavano andando anche quelli del mercatino dell'antiquariato perché non si poteva alzare, proprio un caldo da morire. Poi sono andato a mangiare giù a Porto Torres, di lì c'era un po' di ventilazione, c'era il mare agitato pure, greccale, un po' si respirava. Sono tornato a Sassari, d'ora il forno. E io me lo posso immaginare. Guarda, è impressionante oggi, poi c'è questa cappa, non c'è un filo di vento qua, mette giù la tavola, c'è il greccale ed entra, un po' di ventilazione, c'è il mare agitato, infatti ci sono i surfisti che stanno divertendosi, ma qua in Sardegna, a Sassari non c'è un filo di vento, non entra. E infatti, è così. No, no, zitto, che babbo sta parlando? Oh... Beh, nessun altro c'è, solo tu ci sei. Solo io ci sono. C'era Gianni poco fa. Il premio. Vai da lì. No. Oh. A te lo. C'era Gianni, però ha chiuso, perché io stavo per cenare, capito? Io ceno presto, perché sennò più tardi ceno e più tardi mi tocca aspettare per farmi l'insulina della notte. Capelli, devi rispettare gli orari. Sì, infatti. Non sento neanche propagazione, su nelle altre bande c'è qualcosa, però qua è tutto spento, avanti ieri c'era da tutte le parti, c'è Claudio, quello del, come si chiama, quello di Muros, ha collegato Namibia, è riuscito a collegare, mai sentita in 27. E magari gli è capitata la fortuna che si è aperta la propagazione per lì e l'ha collegata, non vuol dire. Non sono riuscito neanche, anche se l'ho sentita bassa. Io ho provato qualche volta a provare, vabbè, se devo mettere un'altra antenna, sicuramente con quella ci riuscirò, perché è molto più performante. E non sono riuscito neanche a collegarla neanche io in bande HF, figurate, lui è riuscito a fare il 27. Rarissimo, cioè sentire l'Africa, la Namibia è giù nell'Africa meridionale, non è che stiamo parlando Marocco, è cosa che può capitare, ma che arrivi sino giù, lo skip sino giù a Sudafrica è tanto, è molto difficile, e ha fatto anche la Cusca, vabbè, una volta c'ero riuscito anche io in 27. È raro già a farla in HF, lo sai che poche gente ci riesce a farla da Sassari la Corsica. Ma io li sentivo, ah no, ma forse andavano tramite i punti, in 2 mezzo li sentivo i corsi. Sì, no, c'è un ponte che arriva a bomba, 9.60 mi arriva il ponte di Aiaccio, arriva perfettamente qua, una bomba, probabilmente li sentivi tramite il ponte. Li ho fatti anche in diretta, qualcuno sono riuscito a farlo in diretta, e l'ho fatto in HF, che è molto difficile fare in HF l'acustica perché siamo troppo vicini, eppure 40 metri ci sono riuscito, stranamente, ho fatto anche Cagliari, stranamente, cose che sembrerebbero difficili sono riuscito a farle, mentre altri punti che sembrerebbero più facili mi mancano, molti paesi del Sud America ancora, vabbè, devo mettere un'altra antenna, con quella magari va un po' meglio. Sì, cazzo. La propagazione, ma diciamo in linea di massima tutti i giorni ci sono il Brasile, tutte quelle cose del Sud America, probabilmente il dipolo mio è orientato più verso l'est, perché faccio tutta la Russia, arrivano a bomba sempre tutti i paesi della Russia e quelli di Giappone, 9.5, 9.10 mi danno rapporti quelli del Giappone, la faccio benissimo l'Europa, e mentre leggermente negativo sono verso il Sud America, infatti per fare il Sud America ho dovuto utilizzare un'altra antenna, una verticale di 10 metri, che quella spara a lunga distanza, è una bomba, ma per l'Italia, per la penisola non fa, perché perde un sacco di cose, però a lunga distanza è una bomba. Io col dipolo invece l'Italia, a me poco fa c'era un diploma, mi hanno chiesto un rapporto a me perché non riusciva a collegare la stazione attivatrice, non riusciva a sentire l'altro che era, non mi ricordo se era, mi pare zona alta Italia, lui era Rocco, mi pare zona di in Campania, io a me arrivavo a 9.20, gli arrivavo, però lui non sentiva l'altra stazione, infatti mi ha detto a me se riuscivo a ascoltarlo, gli ho dato io il nominativo dell'altra stazione che non riusciva a sentirlo. Io l'Italia la faccio perfettamente tutta, dalla Aosta sino alla Sicilia, tutti i giorni una bomba con quel dipolo, in 40 e anche in cosa, in 80 metri, ieri mi ha detto quello di cavolo, 9.20 gli arrivavo in 80 metri. Purtroppo io non posso manco ascoltare, non c'ho più nulla qua, c'è solo questo apparecchietto qua e basta, questo 3009, quindi non posso manco più ascoltare, figuriamoci. No, ma io non ho antenna niente particolare, ti posso dire, non è neanche messa nelle migliori posizioni l'antenna, perché la punta è in alto, poi l'altra parte è in basso, non è perfettamente allineata quella scaletta, quella che ha fatto Marco, che mi sono fatto dal suo progetto, me la sono rifatta, ma funziona che è una meraviglia, perché quella mi fa gli 80, i 40 e i 20 metri, più accordando anche le bande più basse, più alte anche, però lo faccio con la verticale, quelli 21 MHz, 18 MHz, 24 le faccio con la verticale, però quel dipolo sino agli 80 metri è una bomba, 80, 40 e 20 metri è eccellente, mi danno dei rapporti da paura in Italia, poi in lunga distanza va meglio con la verticale là. Mica, ma purtroppo apparati non ne ho qua, non c'ho più nulla, io c'ho solo il 3009 qua omologato. È meglio non correre rischi, finché non c'è la patente non metto più nulla qua. Ho dovuto dare tutto per colpa di certa gente che non si fa gli affari sui. Hai capito? Se no potevo ascoltare. Io manco ascoltare posso più. Natale, purtroppo la gente è gelosa, l'invidia è il peggior male del mondo tra le persone, è la cosa più brutta l'invidia. Io quando sento un amico che ha una postazione bella, una bella, sono contento per lui, ma è lungi da me essere invidioso, però purtroppo ho notato c'è tanta gente che pettegola e invidiosa, amico, quello sta comprando quella, beh, da chi sa dove ha pigliato le dinarche, un po' varaccio, e iniziano a fare commenti, a fare tante discussioni inutili, e poi sono quelli che ti mettono in difficoltà perché la voce gira e poi alla fine va a finire la voce in persone che non dovrebbero saperlo, per cui uno preferisce evitare il regabadutto. Ecco. Ho registrato e purtroppo è così, Robè, è così. A me mi hanno messo nel mirino, sono andati a dire che avevo gli apparati nascosti negli armadi, io mai avuto in vita mia apparati dentro l'armadio, dimmi tu, c'è stato un break, fallo venire avanti Robè. Capo, avanti il break. Capo, ciao Roberto, buonasera, ciao Natalino, ben ascoltati, non so se mi ascoltate, Franco D'Assorso, avanti a te ancora Roberto e poi fai girare. Sì, ti ascolto molto bene, come segnale se 9.5 abbondanti, la modulazione è un po' nasina, non capisco per quale motivo, Franco, comunque ben sentito, ti rilancio a Natalino, avanti Natalino per Franco. E se non sento a Franco ci devo buttare tutto, minimo, quella poca cosa che mi è rimasta ce la devo buttare. se non senza Franco. Ciao Franco, grazie per essere entrato, buonasera, ben sentito. Ehi Chiappa, aspetta un attimino. Ok, vedi a vedere com'è la modulazione adesso. Allora Fra, io ti ascolto bene, è comprensibile, 5, niente da dire, però è come che stai parlando con naso tappato, citofonica, non hai le tonalità chiare uniformemente, ci sono molto ricca di medi e di medi e di acuti, bassi poi inesistenti, però ripeto, si ascolta bene. Sto uscendo con il coso, perché l'altro giorno ho avuto un problemino con Galax e probabilmente invece gli è successo qualcosa. Sono Galax e lo Shure. Poi cambio radio a vedere un attimino, a vedere come mi ascolti. È penetrante questa modulazione, però ti ripeto, è chiara, ti sento benissimo, però non è la solita è un po' più corposa, più ricca di tonalità bassa e medio bassa. Comunque, no problemi, l'importante è che riusciamo a farci ascoltare e a sentirci uno con l'altro. Di nuovo a te Franco e poi girerai per Natalino. Capo, probabilmente stai parlando quando modulo con K e l'MC60, è molto diverso dal Galax. Va bene, avanti a te Natalino. E concordo con quello che ha detto Roberto, non è la tua solita radio, però già è comprensibile, capito. Citofonica rimane là, diciamo così. Ok, avanti ancora a te Roberto. Cappa, le parti tue com'è la temperatura Fra? Che cacchio, qua dentro la stazione ci sono 30,7 gradi, c'ho il ventilatore quello verticale a fianco a me a 2 metri, sennò guai, sennò mi sciolgo, perché qua non ho la pompa di calore in questa stanza, ma ce n'è da morire, infatti tra un po' vado via a cambiare aria e vado in un'altra stanza, sennò si muori. Avanti Fra. Cappa, vabbè, qua sono salito così a farmi due chiacchiere, però mi sa che mi tocca andarmene, perché sono a 35 gradi qua dentro, dentro la stanza, poi fuori non lo so. Guarda, c'è un caldo da morire, ho acceso un ventilatore che c'ho, ma è caldo. Cacchio, 35 è critica la situazione, viene da muri, dai, no, qua 30 sto già soffrendo, figurati a 35. Ok, Natalino, a te il mic. Natalino non sta uscendo. Natalino, non sei uscito? Aspetta un minuto che cambio radio. Aspetta, c'è stato qualcuno che voleva entrare, avanti che vuole entrare. Dai, controllino Caruccio, come sto uscendo con questo microfono? Saluto a tutti. Infatti quando ho visto il segnale ho detto due persone hanno un segnale così forte, uno è Antonello e l'altro è Carlo. E riprova a parlare Antonello, ciao, buonasera a voi. Sì, ha usato l'M95. Della, come si chiama? Già lo sai, ZG, come sta uscendo, bene o male? Benissimo, a parte questo bip strozzato, la modulazione è chiara e pulita, niente da eccepire. Vediamo se Natalino ha aggiustato, perché non stava uscendo di radio. Vai Natalino. Non stavo uscendo di radio, mi sembra strano. Già lo sento anch'io bene Antonio, già stai uscendo bene. Sei stato qualche secondo poco fa, stavi parlando, c'era solo il segnale, senza modulazione Natalia. E questi Turner lo sai come sono, forse non ho premuto bene, hanno le lamelle, quindi non è che... perché l'MB4 purtroppo ce l'ho in avaria e non mi sono deciso a controllarlo, perché esco basso di radio, non amplifica, capito? No, tu stai uscendo benissimo, questa radio è bella. Vediamo se Franco ha cambiato apparato. Avanti Franco, se ci sei fatti sentire. Chiappa, sì, ho cambiato apparato, ho cambiato. Vieni a vedere questa come la senti. Vabbè. E questa è un po' più naturale come modulazione, è bella. Il segnale forse si è abbassato leggermente, non so per quale motivo, ma poco fa era leggermente più alto. Probabilmente però là c'è più, un po' più di fatto, ciao. E questo è la Presidente Lincoln con le MC60. Oh, questa è bella la modulazione, l'altro è 9 più 5, qua sei 9, comunque sempre radio 5, è molto comprensibile e pulita, meglio dell'altra sinceramente, l'altra come ho detto prima era un po' citofonica. C'è anche Antonello, te lo rilancio, Antonello per Franco, vediamo come vi ascoltate uno con l'altro. Ciao Franco, salutoni, com'è questo microfono con il 4000, buono, va bene, M95, quello palmare? Sì, sì, io ti ascolto benissimo, ti ascolto, bella radio 5, perfetta, poi non lo so come ti ascoltano gli altri. Vabbè, poco fa non era Natalino, era più basso il segnale di Natalino. E allora non lo so chi era, perché era più o meno come Natalino, 9.20 abbondante, 9.25 quasi, mi sembrava Natalino, allora non era lui. Cosa vuol dire Antone? Metto M95 o M93? M95, perché c'è il bip. Ah, ho capito, no, io ho l'M93, funzionano bene quei microfoni, sono eccezionali. E ti posso dire, ce l'avrò dal 2005 col microfono attaccato all'Alan 48, non ho mai cambiato la batteria, sempre la stessa batteria. Lo provo e funziona perfettamente. Io questo Marulla, ho venuto da dove insomma. Ho questo circuito dell'M93, non c'è nulla dentro, ci sono due transistor qualche condensatore, una resistenza, la capsula e non c'è altro. È vuoto questo microfono. L'M600, cioè, quello lì ti dura una settimana la batteria. L'M600 è diverso, anche l'M300 è la stessa cosa. L'M300 durava poco, anche cosa, la DM1000, la stessa identica cosa. Succhiano bene. Tu stai usando l'MC60 con che radio, mi hai detto Antone? Non io, Franco, cioè, sto usando l'MC60 con il Presidente Lincoln, ha detto. Ah, Fra, mi hai detto MC60 con Presidente Lincoln, così? Sì, il Presidente Lincoln con l'MC60. Lo stai alimentando dal microfono, quindi, tu? No, con le batterie. Gli accende le batterie il microfono e sta andando con il microfono con le batterie alla radio. Sì, sì. No, funziona benissimo, complimenti. Mentre Antone, tu stai usando questo M95 con che radio? Con il 4000. Una bella radio, molto chiara, pulita, niente da dire, segnale arrivi 9 più 60, ma ti stai aiutando tu? Oh no, sono liscio. E le altre radio che avevi, Antone? Ce le ho tutte, sono tutte in fila, sì. C'è questa, c'è il coso 140, poi c'è il 2009 e poi il resto è portatili EV. E Saturn Echo che fine ha fatto? Io ho venduto subito, appena l'ho riparato, mi ha telefonato a casa e sono venuto a prenderlo volando, per 50 euro. C'era Piero De Lago, c'era. Chi ce l'hanno, ho capito? Piero De Lago è venuto a prenderlo. Veloce, mi ha fatto scendi giù e portamelo che mi piace, lo voglio. E dove io l'ho sentito di nome questo Piero Drago, da dove sta? Porto Toro? Ah, sa, saremo brava, centro storico. Adesso, l'altro anno non lo so dove si è trasferito e veramente non lo so dove, penso che sarà la stazione. Ha detto di mettersi l'antenna, ha detto che forse si metteva la boomerang, Tu non ho mai sentito, solo di nome l'ho sentito nominare, quindi dovrebbe entrare nuovo in stazione. Dovrebbe entrare in stazione. Uno di questi giorni lo chiama al telefono, glielo dico, quando ne ha voglia di pensarsi questa antenna, questa boomerang che glielo dirà, almeno con 6 metri di palo se la installa e almeno arrivo anche a Sassari, se dovesse essere fuori. Una domanda, scusate un attimo il monopolio, Antone, di che è quell'antenna che c'ha Carbonazzi con la mantova? Quella, viaduca di Abruzzi. No, non viaduca, Carbonazzi proprio, l'hai visto invece il coso dell'Enel, la centrale dell'Enel, di fronte? Di fronte, centrale dell'Enel di Carbonazzi. Ci sono due antenne, ma in una palazzina c'è una canola pesca, ho visto. Mantova non ne ho visto finora, a meno che non l'abbiamo pensata da poco. Boh, io l'ho vista un paio di mesi fa, infatti tu chissà chi è questo, non riuscivo a capire, bella dritta, grande, non so chi sia però. Ma ti giuro che non l'ho vista io, eppure ci vado spesso lì, anche in farmacia da Masala, di via Carbonazzi, via Cosa. Io ho visto solo queste antenne qua, una è una canola pesca, l'altra non mi ricordo che antenna è. Però Mantova non ci ha fatto caso. Domani ci guardo, vediamo un po', vediamo quello è. Guarda, non sono sicuro che sia una Mantova, però come forma, con i radiali così lunghi e così grandi, non è che non esistano altre antenne simili. Mi sembra una Mantova 4, una Mantova 5 o Mantova 1, adesso non mi ricordo se ne aveva 4 di radiali o 5, però è molto simile alla Mantova come tipologia di antenna, deve essere una 5 ottavi perché è molto grande, a occhio e croce sarà 6 metri e i radiali saranno di 1,5 metri, non lo so, 1 metro più o meno, vista così, e l'ho tracciato lo sguardo, ho detto questa antenna dove è uscita. Infatti volevo chiedere a te, visto che tu abiti più o meno con la zona lì. Ok, facciamo riprendere a Natalino e poi a Franco. Vai Natalino. Aspetta, mi è venuto in mente adesso. Quella Mantova lì è nella palazzina rosa, come avete ricevuto. È di una ragazza che parlava a Baracchino da poco fa. Parlavano due sorelle lì, in quella prima palazzina. Poi lì, appena più su c'era Fabietto, ma Fabietto non aveva staccato tutto. Capito? E poi nell'altro fianco di quella palazzina c'era Giuseppe di Torvalba che in pratica adesso va a Sassari, ma non so dove, mi aveva detto che doveva ripetere tutto di nuovo. Di una ragazza comunque, una ragazza che è stata al primo piano, lì come si arriva con la mappa per esattezza è quella. Io con la mappa, addirittura dicendo. Ok, dopo ti faccio un'altra domanda, facciamo riprendere a Natalino e poi a Franco. Ehi, continuate voi, io sto leggendo qua, già vi sto ascoltando. Vai frate. Ehi, capo, dai, non conosco la persona di chi state parlando, non conosco, dai, potete fare anche il questione normale. Se è così, fagli la domanda. Vabbè, fare roba veloce. Dimmi un po', Antone, Fabio, che stai dicendo tu, Fabietto, è Fabio Master sarebbe. Ah, Fabio Master è abitatore del Sole, che adesso non abita più, ma lavora, visto che dove vendono la roba vecchia, lavora lì, di fronte a 188. Quel Fabietto che sto dicendo io abita ad Andrica adesso, prima abitava lì proprio di fronte a cosa, via Gola Malfa, adesso lui abita, ci ha comprato l'apparecchio nuovo, la palazzo e sta facendo il patentino, capito? Fabio Master era in coso, sopra il tabacchino in via Gramsci, più o meno, dai, dopo la Conad. E io vedo sempre il suo camper posteggiato, invece con un negozio quasi nuovo, prima della piazzetta, di fronte alla piazzetta. Però a lui l'ho perso di vista, una volta ho trovato la cartoleria vicino a casa, ci siamo guardati in faccia, ma noi ci conosciamo, e buh. Poi penso che stava con quella tipa lì, se l'ha messo, non lo so, perché l'avevo visto una volta, poi chiuso, quel posto è sempre chiuso. Non è più aperto, ogni tanto vedo la serrandina all'ingresso a metà, adesso stanno facendo quella, però lui è scomparso e quell'attività è sempre chiusa, dice per ristrutturazione è chiuso, ma cacchio, è più di un anno chiusa. Evidentemente magari sta spostando il negozio da un'altra parte. Comunque c'è il campo, è proprio attaccato a cancello, nero. Nero. C'è il camper lì, dove hai visto tu, c'è il camper suo, dove c'è quel capannone. Non è nero, tu mi hai detto il campo è nero, già lo so, lo conosco bene quel campo, io a Puglia, non dico tutti i giorni, quando passo il Fort Transit come il mio, molto simile al mio il campo. Ok, di nuovo a te Franco. Ehi capo, io guarda Robè, mi dispiace però vi devo lasciare perché qui non si può stare, è troppo caldo stasera, dai. Sono entrato così tanto per salutarvi, perché non ho parecchio, non vi sentivo. E ci sentiamo magari alle prossimine. Ciao anche a Natalino, a Torello e anche a te Robè. Buon proseguo, dai, che qua vi voglio gli asciugamani. Grazie, dai, ci sentiamo quando vuoi, sempre un piacere Franco. Buon tutto, anche qua vi sono 30,7 come ho detto prima, stabili, ma 35 me ne sarei già buttato a moglio al posto tuo. Ciao Fra, di nuovo, ci sentiamo, vai a Donello e poi Natalino per il saluto. Ciao Fra, ci sentiamo. Io ti calo anche qua. figurati. Io sono in Massada, mi figuro. Sono andato parecchio, non ho il keyboard, in modo da non farlo scaldare per troppo. Cioè, c'è da quello che si diventa come mettermi dentro una pentola calda. Ma io poco fa, se poco fa ero acceso, adesso faccio salutare Natalino. Natalino saluta a cosa? A Fra. Ciao Fra, grazie per le quattro chiacchiere, alle prossime, dai. Avanti, Antone. Forse che si sa lì Natalino, c'è meno caldo. Io mi sapevo che fresco Natalino. 30 gradi ci sono, però c'ho il ventilatore acceso, le finestre chiuse, sennò no che non si può chiamare. Che è da 30 gradi pure. Di solito di essere sempre che c'avevo fresco io. Dove abitavo prima io potevo tranquillamente aprirmi con 35 gradi fuori, c'avevo 12 gradi all'interno, 12-15. Potevi aprire tranquillamente una bottiglia di vino, te la bevevi e stavi bene, finché non uscivi fuori, se uscivi fuori è morto. Quello è poco ma sicuro, no, 30 gradi ci sono qua. No, come qua accendo le radio grandi, i 940, poi accendo il televisore per avere dove c'è il programma del buco di stazione, roba di calore, a vedere se sale la temperatura, e quello scalda, i 940 scalda, quando inizia a tirare potenza, tira aria, ci sono le ventole, c'ha due ventole e tira, per cui anche il televisore scalda, infatti adesso ne ho spento tutto, ho detto buh, lascio qua la 27 e basta, mi sono messo vicino al ventilatore con le torrette verticali. E un pochettino di ventilazione ce l'ha, se non muri no. Di nuovo a te Antonello. Adesso mi vedrai, fa come ieri, verso le 9:30, 10:00. 10:30, una cosa del genere, comincia il venticello, incomincia. E si sta bene. Dopodiché ritorna un po' il caldo. La mattina di notte c'era la baracchina, vero? Allora mi sento tum tum tum tum tum, cosa cazzo sta succedendo? Controllo al marine, c'era sabato, stavano festeggiando qualche sposalizio, c'erano i fuochi artificiali alle 11:30. E li ho sentiti anche giovedì scorso, deve essere che adesso la gente sta sposando anche in settimana, non più di sabato e di domenica. E a cosa, come si chiama quello che c'è uscendo da Monserrato, quello, la Maison, di lì li fanno spesso i matrimoni. E giovedì proprio sembrava un bombardamento, e poi quando è che li ho sentiti? Anche venerdì, però più di tutti era giovedì. Venerdì era verso le 11:00, 11:30, mentre giovedì era più presto, ma proprio sembrava vicino a casa, una guerra. Io quando sento così sono uscito fuori, non ho dato magari a Petanietta, perché di solito facevano lì i fuochi d'artificio, e invece erano qua qui a Marini, capito? So che io, è strano che gli facciano fare una cosa del genere, perché ci sono io, c'è la Pinetta a fianco, mi sono attaccata al Marini, c'è la Pinetta dei Conti, se dovesse sbagliare prendere fuoco qualcosa lì, cosa vede? Anche al Marini fanno matrimoni. E io, al Marini, quello che c'è, salendo al quadrato. E allora quello lì probabilmente perché erano così furti erano al Marini, perché erano più furti del solito, allora Zoghizzi, infatti allora c'è ragione tu, non sono quelli della Maison, perché quelli della Maison li sento più lontani, ma giovedì o venerdì erano fortissimi, proprio boom boom boom, ma tante cose di fanno. Mi sono meravigliato io che l'abbiamo, cioè è strano che abbiamo fatto fare i fuochi d'artificio con quella pinetta che ci ha attaccata, ma c'era la pinetta dei Conti attaccata. Se sbaglia poco poco dovesse prendere fuoco lì, guai. Già lo so, di lì è tutto erbaccia, poi ci sono un sacco, anche dove c'è Corea, di lì, se ci cade qualche cosa di lì ce ne sono di sterpaglie da prendere fuoco. C'è anche attaccato Corea, infatti, sì, le ultime casette sono proprio di fronte al... C'è il vero, c'è il Conte e c'è anche Corea, quindi si sgarra poco poco e dovesse partire qualche cosa del genere in Kiwi, già lo fermi domani, già. E poi ci abita gente, di lì è pericoloso, a Corea ci abita ancora un po' di gente, perché un po' di gente ce ne sono andate, e c'era un'amica mia che abitava, un'altra persona che conoscevo che abitano ancora lì. E ci abita cosa? Marco Bidau, il meccanico quello della Piaggio. Più di una famiglia ci abita, due sicure, però penso almeno 3 o 4 ci abitano ancora. Ok, e cosa Claudio, ho sentito il senso? Ho sentito, stasera presto, intanto 5 minuti e poi è sparito. No, io sono andato una mezz'oretta fa, ero in alta mare, per te se c'è qualcuno qua in 27 che ero da qualche giorno che non mi facevo sentire. Ho sentito, ho chiamato e mi ha risposto Antonello, poi è entrato subito dopo Franco e poi sei entrato tu. Lo dice che c'era prima già nel doppio room e poi non so chi c'era altra gente. Boh. Vabbè, adesso la gente a quest'ora se ne va a me. Esce, va a piazzetta, va a 188, a bersi l'aperitivo. Dopo cena, perché c'è più fresco, o al circo, di quel circo dove ci sono lì. No, io ne sono rientrato da stamattina che ci manco, sono rientrato, ero giù, poi appena andato a Patamona da mio fratello, c'erano amici, però poi me ne sono andato, non avevo gara. E mi sono riposato 10 minuti, sdraiato all'aria fresca, che viene da Muri, ho acceso l'aria condizionata in camera, e sono venuto in radio. No, non lo so se dopo esco, ma sarà difficile perché sono anche stanco. Ieri sono uscito, sono andato a trovare una persona, sono stato sino a tardi, c'è la campagna a Prato Comunale a Canica, ma ci stava così bene, sono andato alle 10, un paio d'ore, fuori all'aria aperta, era troppo bello, poi un silenzio di lì in quelle zone lì, non senti a burutto, sembra in un altro posto, il cielo tutto lo luce, stellato, perfetto. Allora, cielo stellato, mi pare che non cano cantoni. Ma sembra che sia in un altro posto, perché non c'è regolamento luminoso, qua a Sassari, quando lo sguardo, le stelle ne vedi 2 o 3, di lì catazzi lo sguardo e vedi tutto, come ieri c'era là, vabbè, era alle 4:30 del mattino, l'allineamento di non so quanti pianeti, 5 pianeti, ed è un evento che c'è ogni 18 anni, l'ultima volta era 18 anni fa, e sta portando lo sguardo e ci avvi adesso e si vede, ha stato lo sguardo, tu devi vedere le stelle, tipo quando vai a Platamona, non so se ti capita da pescare di notte, che non vedi la città, non vedi tutto l'inquinamento luminoso e sembra che sia in un altro posto, perché qua a Sassari dove sono io non si vede nulla, ma te dire era bello, poi c'era questa riettina leggera ma rilassante, c'era una poltrona, una specie di quelle sdraio, dai, con le invimini, si stava troppo bene. Allora, ma fresca vicino, sei tranquillo, avanti a Tavì. Ti stavo dicendo, Robè, un interrogativo. Per il log di stazione qualche programma bello c'hai, oppure usi quello cartaceo? Allora Natali, io il buco di stazione me l'ha fatto Marco, è bellissimo, proprio fatto bene, tutto in automatico, però me ne hanno fatto vedere un altro, ancora più evoluto, quello di Marco è più professionale, nel senso più generalizzato, c'ha tante cose, pure troppe per dire, per i miei gusti, mentre quest'altro, che c'è un amico radioamatore, è più bellino, c'ha meno cose, però per dire, se tu scacci il nominativo di chiunque, anche ti appiare immediatamente la posizione millimetrica, per dire schiaccio quello, questo è di Nuoro e ti esce Nuoro, mentre quello di Marco mi esce Sardegna, è più a livello mondiale, nel senso non è più dettagliato, questo col satellite ti esce Nuoro, ti dà proprio la posizione della stazione, la via e tutto quanto, satellitare, non c'ha tante cose per dire come può avere quello di Marco, perché c'ha cose in più per i satelliti eccetera eccetera, per dire se io devo scrivere il nominativo di una persona, devo entrare, c'è una specie di mappamondo, schiaccio sopra e mi appare il nominativo, dov'è, se ci sono fotografie me le dà da correre esattamente, in quel caso là fa tutto in automatico, mi faccio dare quello lì da questo amico, che forse per te è meglio quello lì, il buco di stazione mi stanno dicendo che non è più obbligatorio, anche se è bene farlo, però dice che da quest'anno, dal 2021 non è più obbligatorio. Eppure Nando ha detto che è obbligatorio, l'ha detto venerdì scorso, questo venerdì, ecco che è obbligatorio il log. Guarda, io ti faccio leggere una circolare della cosa, siccome c'era una interrogazione proprio a livello di cosa, che dovevi farlo in cartaceo, e cartaceo non sta più facendo nessuno, li fanno tutti in digitale, col computer, e c'è stata fatta proprio un'interrogazione a livello di ministero, e c'è stata una risposta dove c'è scritto che non è più obbligatorio farlo, questa roba qua. che tra l'altro ce l'hanno tutti per comodità, quando ti fai contest eccetera eccetera, lo fanno tutti quanti, però non è più obbligatorio tenerlo, firmare le pagine come facevi prima, te lo ricordi? Non è più obbligatorio questo fatto qua. Alla fine hanno detto, tanto lo fanno comunque le persone, e il ministero ha detto che una circolare di, mi sembra che sia luglio dell'anno scorso, una cosa del genere, che hanno fatto delle leggere modifiche, però è bene farlo. Io il MUC lo compilo sempre, ogni collegamento che faccio mi metto direttamente, lo faccio immediatamente, perché poi sto facendo i diplomi e guardo le posizioni, i cluster eccetera eccetera, e mi metto tutto quello che devo mettere, ma lo faccio anche per questione personale di prestigio. Però detto da una circolare, perché ho visto un coso su Roger K, mi sembra, quello dei radioamatori, c'era scritto proprio questo. Sì, vabbè, mi informerò. Io cartaceo già ce l'ho, ma l'avevo fatto quello cartaceo, l'avevo fatto anche a Claudio, solo che questi digitali, boh. Data lì è molto più veloce, te lo garantisco, perché all'inizio li stavo scrivendo a mano, per dire scrivevo IS0 bim bum ban, se lo devi poi verificare tutto, lì invece scrivi in automatico. Io sono una banda di 7150, per dire, mi appare direttamente la frequenza, mi memorizza la frequenza, l'orario e tutto quanto, poi ti tirate il rapporto, se per dire vuoi modificare se il rapporto, lui normalmente ti mette 5-9, ma se un rapporto è 5-7, 5-6 lo modifichi tu eccetera eccetera, e ti va tutto in automatico, non stai a perdere tempo, te la annoti, dopodiché te lo salvi nel computer, te lo salva in automatico, come chiudi, e io poi ho una chiavetta, ogni tanto prendo tutto il coso e me la aggiorno questa chiavetta, in modo se per dire, si rompe il computer, c'ho tutti i collegamenti che ho fatto, migliaia di collegamenti che ci sono, se no è un brutto perderli. Lo so. Il cartaceo qualcuno lo fa ancora per cosa, poi radioamatori anziani, c'è un amico radioamatore molto anziano, lui lo fa ancora il cartaceo, e più se lo mette sul computer dopo, prima se lo fa, se lo scrive a mano e poi con calma se li annota nel corso. Però il cartaceo è più immediato, perché quando devi dare le QSL lì ti appare l'ora internazionale, l'ora UTC, dove per dire l'hai fatto in quel momento lì, come metti salva, tank, automaticamente te lo salva l'orario e spacca il coso, il secondo, totalmente perfetto, per cui quando ci sono le conferme delle QSL, perché tu puoi sbagliare l'orario, magari tu scrivi le 10.30, invece sono le 10.35, tutto è in automatico, non stai a perdere tempo ed è molto più efficace, oltre che più sbrigativo da compilare. Io lo uso solo quello, cartaceo l'ho tenuto all'inizio quando non avevo ancora il programma, ma dopo una settimana me l'ha messo Marco, e quello Marco è più, diciamo, più generalizzato, perché se tu fai un collegamento, per dire, a Roma, lui ti mette in Italia, se lo fai, cioè ti ha sempre Roma come punto di riferimento, se lo fai in Sicilia, lui ti mette sempre il riferimento Italia-Roma, per dire, fai la Spagna, qualunque località, ti dà sempre Madrid, mentre questo che sto dicendo io ti dà esattamente le coordinate, per dire, io faccio Abasanta, questo di Abasanta, attacca esattamente, lui ti segna Abasanta, ti metti in ingrandimento e ti fa vedere dove è la casa sua, proprio con Google Maps, bellissimo, però non ha certe cose che per dire quello di Marco è più completo, dai. Io ho capito. Vai Antonello. Io quello dovete scrivere tutto, io ma non devo scrivere niente. Andava. No, io mi sto divertendo, Natali, con i diplomi, la cosa che mi diverte più di tutti. E grazie a Dio sta andando bene, nel senso ho bellissime posizioni. Se tu entri diplomi.it e ti guardi le classifiche, sono sempre tra i primi, dove ci sono 1500 persone, 20esimo, 18esimo, 9, 15esimo. Mi sto divertendo, devo dire che certi diplomi non li ho fatti con attenzione, adesso cerco di farli con più attenzione, come c'è il coso, subito mi butto e li faccio. E sta andando bene, ti arrivano le QSL immediatamente, poi come hai fatto il collegamento, ce ne sono una marea di questi diplomi vabbè, Giuseppe Garibaldi non c'era, chi c'era? Quelli delle Cristoforo Colombo, Ionosferica, Cristoferetti, Margherita, che ne avrò fatto una trentina di questi diplomi, e tutti con buoni risultati, devo dire, perché in Sardegna li ho guardati tutti, nessuno ha fatto il punteggio che ho fatto io. C'era uno che si è avvicinato, ma molto distante, non per vantarmi, ripeto, Antonello e Natalino non me ne ha fatto nulla, però è una cosa carina. Infatti come schiaccio tunc, mi conoscono subito, mi dicono sì, Roberto da Sassari, salutami la bella Sardegna, senza dire niente, appena dico tre lettere subito mi conoscono. Ma ho notato che su non c'è più attività, boh. Su dove, Natalina? VHF? Sì. Cosa stava succedendo? C'è stato l'interesse iniziale, come sono entrato io e qualche un altro, ne ho patentato. Poi quando entravi di lì all'inizio era come canale 10, c'erano le chiacchierate, le cose, era un canale muni. Dopodiché è successo che entravo io, entrava un altro, e mi sposto un attimino a fare una prova e tu rimanevi fermo così aspettando come ti un'aereo. Poi entrava l'altro, io andiamo a provare quello, prova quello là, e alla fine stava diventando una cosa di passaggio, dai. E per cui adesso alla fine non c'è più nessuno, è preferibile, magari io me ne vado sui punti, qualche volta c'ho qualche amico, ci mettiamo a parlare, dirgli anche fuori e ti diverti di più. Devo dire che le VLU le sto usando quasi niente in questo periodo, sto andando solo sulle bande HF, che parli con tutti, con tutto il mondo, e ti diverti, soprattutto con gli amatori di fuori, e ti fai belle discussioni, belli argomenti, gente molto preparata e ti diverti. Qua era canale quello 525, era bello sì, però in certi momenti diventava anche fastidioso, perché quando c'era troppa gente non v'era un buco per parlare, oppure altre volte eravamo due o tre, uno si spostava, bene che andiamo a fare una prova di lì, boh, tu aspettavi 10 minuti e non tornava nemmeno, alla fine diceva cosa rimango a fare, e così è successo, molta gente la vede come dico io e se ne sono andati per quello. Ok, di nuovo a te Natalino che farà girare per Antonello. E riprenderà quando entrerò io, penso. Sì, è così Natalia, te lo ripeto, è stato un coso non per dire, non per coincidenza, magari non lo so, come sono entrato io e un altro appena ne ho patentato, ha detto facciamo 5-25 con, ho detto certo, e all'inizio eravamo quasi tutti i giorni, soprattutto d'inverno, come lo, poi piano piano nessuno, adesso io ogni tanto faccio chiamata, ma ti ripeto vado sui punti, c'è qualche amico che ti risponde e basta, ce ne sono da diamatori meno, da noi Sassari ce ne siamo tantissimi, poi ci sono i gruppetti perché c'è quell'altro che non si parla con quello, quell'altro che non si parla con quell'altro che non utilizza il ponte perché non so per quale motivo, io già vado d'accordo con tutti, c'ho quello che non mi bisticcio con le radio, l'ho sempre detto, però ci sono delle persone che probabilmente hanno dei rancori o delle cose passate per cui non si parlano tra di loro, e molte volte per dire c'entro io insieme a un altro, non entra quello lì perché c'è quell'altro, e succede un po' come succedeva molte volte qua in 27 e devo dire anche peggio. Infatti, ma io me la sto prendendo così, non lo so neanche io perché. Poi Natalia, io ho fatto un'uscita di testa, ho detto io ci provoca, perché avevo fatto l'altra volta, proprio avevo studiato con attenzione tutto qua, ed ero disgustato perché mi avevano bocciato per una cagatina, ma 0,25 punti, meno di una domanda sbagliata, e alla fine ho detto guarda, sono stato dal 2012 sino al 2021, ho detto, ma oh, mi tiravano sempre le ore, ma perché non te la prendi, ma perché non te la prendi Walter, Marco, Claudio eccetera eccetera, mi hanno incentivato soprattutto Walter e Mamma, a prenditi questa parte e prendi, beh dai, mi sono messo a studiare un mesetto, ma studiando, ripassandomi e basta, ma sono tentato, è andata bene, e ti posso dire sono soddisfatto perché mi diverto tantissimo sulle frequenze radioamatoriali, c'è sempre qualcosa da ascoltare o da parlare, perché sono sempre piene di gente da parlare. 27 qua molte volte accendo non vedi nessuno, di lì invece quando fai un collegamento vedi 27 in propagazione con la Spagna, cata la Spagna, di lì la Spagna neanche l'ascolti, perché talmente c'è tutti i momenti, la Spagna, la Francia, tutti quei paesi lì, li senti tutti i giorni, talmente forti, a certi momenti sono anche fastidiosi perché se devi fare qualche collegamento lontano si mettono in mezzo, magari ti sovramodulano eccetera, però è divertente, ci sono una marea di bande e tipi di emissioni e ti diverti. Di nuovo Natalia. Lo so, io me la so prendere così per sfizio e boh. Appunto, provaci la taglia e ti sono sicuro che poi ti diverti. Ti metti un pezzo di filo come ho fatto io, un attilare, e ti diverti e parli con tutto il mondo. Adesso piano piano me la sto aggiornando la stazione, ti prendete la taglia, io ho l'amplificatore, quello che da 800 watt, lo IAS, mai usato e mai utilizzato. L'ho preso per scorta, perché se c'è una buona antenna, vai da tutte le parti. Quando mi danno i rapporti non ci credono quando dico che ho 70-80 watt in antenna. Se presente poi ci sarà un po' di rientro, perché quell'antenna non è perfettamente accordata e non è neanche messa in modo impeccabile, per cui perdo qualcosina, però i rapporti che mi danno, soprattutto in Italia, eccezionali, vari, a lunghe distanze, solo con la verticale riesco ad andare un po' più lontano, però ho parlato con tutto il mondo. Mi manca, ho fatto un'isola dell'Australia sperduta che nemmeno conoscevo, forse un colpo di fortuna, mi mancano dei posti dei continenti, manca solo l'Australia, per così ho fatto tutti i continenti. E ci stai andando sotto? No, mi sto divertendo invece più di tutti quei di plume, di lì mi diverto, perché mi arrivano ogni giorno una marea di QSL, puntigi, 5 punti, 3 punti, punto Giulio, altri 5 punti, e faccio classifica, di lì è divertente, perché poi ti leggi nel coso, nel sito dei diplomi, e leggi il tuo nominativo, e cacchio, ti dà anche un po' di soddisfazione, che vedi gente, e tu per dire, magari sono allenatori di una vita, che magari non gliene ha fruttinuta di fare diplomi, e io invece ne ho già fatto una marea di questi diplomi. E arrivano tutte le QSL, adesso me le devo mettere tutte da parte, me le ho salvate, me ne metto le più belle, me le metto da parte e mi faccio il quadretto. Vabbè, speriamo che mi vada bene, io devo ti dire. A ottobre devo fare l'esame. Sì, sì, già, non ti preoccupare, già hai tempo. L'importante è che tieni anche 10 minuti al giorno, 20 minuti, l'importante è che non perdi il ciclo, perché se perdete una settimana ferma, come era successo a me, poi mi ho dimenticato, devi farti, vai in bagno a fare bisogni, ti porti il libro e ti leggi 10 minuti, ti stai guardando nel letto sdraiato e ti prendi altri 10 minuti di cosa. Devi tenerti sempre la mente allenata, perché se no è brutto, perdi domande che per dire erano semplici, poi ti viene il dubbio, ma com'era quel? Devi essere sempre allenata la mente, ripetere, continuare a leggere sempre, e alla fine memorizzi. Vai Antonio. Tu fai finta di...